Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Edizione speciale. Domande e risposte sul coronavirus. Buongiorno a voi e benvenuti. Apriamo il nostro consueto spazio quotidiano. Monitoriamo le mosse del coronavirus, sempre ricordando però il nostro hashtag. Accendiamo la testa, spegniamo la paura, che ben racconta l'obiettivo di questa finestra quotidiana: rispondere alle vostre domande e i vostri dubbi con l'aiuto degli esperti della CIMIT, perché cittadino informato, cittadino non panicato. Per fare le vostre domande potete mandare un SMS, un WhatsApp al numero 335 100 6297. Sono oggi con noi la professoressa Paola Cinque, dell'unità operativa di malattie infettive dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno. E il professor Marcello Tavio, che voi ben conoscete perché è presidente della CIMIT, è intervenuto in diverse occasioni. Professore, buongiorno e grazie. Buongiorno a lei, Nicoletta, agli ascoltatori e alla professoressa Cinque. Professoressa, iniziamo da una buona notizia. I ricercatori dell'ospedale Sacco hanno isolato il ceppo italiano del coronavirus. Questo cosa significa? Perché è una buona notizia? Una buona notizia, perché riuscire a isolare un virus, a maggior ragione un virus nuovo come questo coronavirus, e soprattutto in un paziente italiano, quindi isolare il ceppo che circola attualmente in Italia, è molto importante sia per aspetti pratici legati alla diagnostica, alla terapia, che per aspetti di ricerca. Che cosa vuol dire isolare un virus? Vuol dire prendere un campione biologico che contiene il virus, per esempio un tampone, seminare, diciamo così, delle cellule in laboratorio, fare crescere questo virus nelle cellule, quindi a questo punto abbiamo a disposizione del virus che ci può essere utile, per esempio, per testare dei farmaci. Se sopra questo virus ci mettiamo un farmaco, il virus smette di crescere, di replicarsi, abbiamo un farmaco attivo. Molto importante anche vedere come parti del virus, e questo lo possiamo vedere solo sul virus integro, rispondono per esempio a certe cellule del sistema immunitario oppure ad anticorpi che possono neutralizzare il virus, per cui si apre, diciamo, uno scenario di studio delle risposte immunitarie specifiche verso questo virus, che è molto importante per capirci qualcosa di più e anche per sviluppare delle immunoterapie o dei vaccini. Quindi la ricerca è andata avanti, vogliamo sottolineare. La ricerca va avanti, certo, molto molto velocemente. Ecco, siamo bravi. Professor Tavio, con lei invece parliamo di numeri, ci presti il suo occhio clinico per leggere i dati dalla parte giusta. Dalla parte giusta vuol dire tenere sempre presente che questa è una patologia per cui la guarigione è la regola. Solo una minoranza delle persone sviluppa delle complicanze e solo una minoranza delle persone che fanno le complicanze hanno bisogno di essere ricoverate. Questo è molto importante da dire, per cui è una patologia infettiva per cui guarire è la regola e non bisogna, come ha detto lei, impanicarsi, ma affrontarla con la testa. Nella mia esperienza vedo che sempre più persone ammalate arrivano a noi serene e fiduciose su quello che possiamo dare loro e quello che possono ottenere dal sistema sanitario. Professor Tavio, quando parliamo e sentiamo il numero dei contagi, ecco, come possiamo leggere quei numeri? Che cosa significano esattamente? Perché non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, come si dice. Ecco, ribadisco quello che dicevo prima. I contagiati sono tanti, ma includono una stragrande maggioranza di persone che o sono già guarite o stanno molto bene e stanno per guarire, o dovranno fare ancora qualche settimana di osservazione per essere dichiarate guarite. Una minoranza di queste persone, una piccola minoranza, ha purtroppo perso la vita ed è assolutamente probabile che il virus abbia dato un contributo, anche se molte di queste persone avevano delle patologie. Erano pazienti fragili. Fragili, sì. Allora, vediamo quale domanda tocca alla professoressa Cinque. Siamo pronti, andiamo. Buongiorno. Senta, una domanda. Per noi che siamo, o almeno parlo del mio caso, che siamo allergici, e fra un po' parte, diciamo, i starnuti e queste cose qua, e si sa come andrà a finire. Come devo comportarmi con la gente che ho di fronte? Professoressa 5, noi, ecco, sì. Sul sito di Epicentro si legge che in Italia si stima che ogni anno circa 9 milioni di persone si ammalino di allergie respiratorie derivanti dalla presenza di pollini nell'aria, quindi è un problema abbastanza diffuso, direi. Professoressa, come rispondiamo sì. al nostro ascoltatore? È un problema diffuso, preoccupante, ci sono fortunatamente dei rimedi, dei vaccini e diciamo che non è una cosa nuova, perché comunque la stagione delle allergie si sovrappone spesso negli anni scorsi, è sempre stato così, alla coda dell'epidemia influenzale, no? Solo che vabbè, chiaramente in questa situazione particolare uno si pone dei problemi che prima non si poteva, ma semplicemente io direi che bisogna fare quello che è giusto fare, no? Sternutire, se uno deve sternutire, evitare di sternutire addosso alla gente, evitare di starnutire coprendosi la bocca e il naso con le mani, no? C'è questa procedura che è stata rispolverata, se ne parla tanto di starnutire nella piega del gomito. Esatto. Sono tutte cose importanti. Se uno con l'allergia fa le cose giuste, e vabbè, qualcuno mi guarda male, sono allergico, però l'importante è che noi facciamo le cose bene. Se so di essere allergico, prendo i miei provvedimenti e dal punto di vista generale non faccio assolutamente niente di male. Poi comunque non credo che l'isteria sia arrivata a un livello tale da guardare male. E comunque noi continuiamo a sottolineare il nostro hashtag, accendiamo la testa, spegniamo la paura. Professor Tavio, si prepari perché tocca a lei, andiamo. Buongiorno, quando si parla di terapia intensiva di che cosa si tratta precisamente? Che tipo di terapie gli vengono sottoposte agli infettati? Personalmente è l'unica cosa della quale mi preoccupo, visto che anche alcuni giovani si trovano in terapia intensiva. Professor Tavio. Sì, la terapia intensiva viene utilizzata per questi pazienti quando non è più possibile trattenerli nel reparto infettivologico, perché è necessario supportare gli organi vitali. In pratica, nel caso di questa infezione, il fatto che le persone, i pazienti con polmonite, non riescono più a respirare spontaneamente, hanno bisogno di essere assistite, la ventilazione assistita, in pratica devono essere intubate e sedate. Questa è un'eventualità che succede in una piccola quota di persone colpite dal coronavirus, meno del 5%. La grande maggioranza di queste persone comunque viene supportata adeguatamente e guarisce, anche se arriva in terapia intensiva, soprattutto nel caso arrivi in buone condizioni generali. Andiamo adesso alla nostra parola del giorno. La parola del giorno. Professoressa 5, portatore sano e paziente asintomatico sono la stessa cosa? Riesce a spiegarcelo in un minuto? Proviamo. Dunque, diciamo che nella pratica, soprattutto in questo contesto del coronavirus, vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile per esprimere poi alla fine lo stesso concetto, anche se ci sono delle sottilissime differenze. Il paziente asintomatico è una persona che ha contratto l'infezione ma che non presenta sintomi, o perché l'infezione si svolge in modo lieve, quindi con una quantità di virus che si replica poco, oppure perché siamo ancora in una fase che precede la comparsa dei sintomi. Sì. Poi, quando compaiono i sintomi, siamo in una fase della malattia, probabilmente associata anche a una maggiore replicazione del virus nell'organismo. Il termine portatore sano mette l'accento sul fatto che una persona è in grado di portare dentro di sé, cioè quindi di ospitare nel proprio organismo un microorganismo come un virus, però è sano. E se vogliamo essere davvero puntigliosi, sì, una persona sana non solo non presenta i sintomi, ma non dovrebbe proprio avere sviluppato l'infezione e tantomeno la malattia. Poi diciamo che, parlando di coronavirus, questi due termini vengono usati come sinonimi. Analogo. Certo, certo. Professor Tavio, una domanda veloce prima di chiudere. È possibile che l'influenza di gennaio, questa sta circolando molto anche sul web, fosse una sorta di influenza generata dal coronavirus? Molte persone hanno avuto l'influenza 20 giorni fa. Molti sintomi respiratori, potrebbe essere il coronavirus? Professor Tavio, meglio, gli ultimi secondi. Dunque, se questa notizia fosse vera, dentro ci sarebbe una buona notizia e una cattiva notizia. Sì. Cominciamo dalla cattiva. Se fosse vero, vuol dire che il virus circolava molto prima che scattasse l'allarme, quando non avevamo nessun sospetto sul fatto che fosse già fra noi. Mm. La buona notizia è che la stragrande maggioranza delle persone non se ne è accorta e neanche il sistema sanitario se ne è accorto. Evidentemente in quel caso si dimostrerebbe una volta di più che la guarigione senza reliquati, senza conseguenze, è la regola. Grazie alla professoressa Cinque e al professor Tavi, abbiamo, devo dire, spaccato il minuto, lascio la linea, buona giornata, ci sentiamo poi a mezzogiorno.